chiamatevi Tiresia, partita con quel signore che ha scritto un romanzo su una balena bianca, oppure Tiresia sono, per dirla con qualche altro che forse conoscete. Zeus mi diede da vivere 7 esistenze e questa è una delle 7, però non posso dirvi quale. Di sicuro, negli anni passati, qualcuno di voi avrà visto il mio personaggio su questo stesso palcoscenico, ma si trattava di un attore che impersonava me. Mentre io, Tiresia, stasera sono qui di persona personalmente. Per dirvi tutte le traversie che il mio personaggio ha passato nei secoli scorsi e per fare il punto sul momento esatto nel quale da persona divento personaggio. Dunque, io sono nato a Tebe, figlio di una ninfa, Cariclo, e di uno dei padri fondatori della città. Tebe sorge a sud del Monte Citerone. Il Monte Citerone, che avrà tanta parte nelle mie vicissitudini, non era un monte come gli altri, era un monte bellissimo a vedersi, tutto avvolto in un verde cupo intenso, picchiettato qua e là da enormi massi bianchissimi, contro cui si frangevano le acque di ruscelli, di rivi, di un'acqua freschissima, purissima. Ah, era il monte delle metamorfosi. Gli dèi scendevano dall'Olimpo e venivano sul Citerone a fare i fatti loro, sui quali è meglio non indagare. E qui, per non farsi riconoscere, si mutavano immediatamente in animali, in alberi, i ruscelli, capite? Così poteva capitarsi il caso che una ragazza decidesse di farsi un bagnetto in un lago del Citerone. Se lo faceva e dopo qualche mese cominciava a vedere il suo pancino arrotondarsi. Naturalmente se ne accorgeva anche il papà. Che hai fatto, svergognata? Papà, io non ho fatto niente, ho fatto solo un bagno in un laghetto del Citerone. Oh Zeus, Zeus, è possibile che quel laghetto non fosse un laghetto, ma un dio tramutato in laghetto e quindi ne ha approfittato. Bene, di fronte a una spiegazione simile, al padre non restava che abbozzare.